Albertine, la sera in cui il lift era andato a chiamarla, non venne, malgrado le assicurazioni del messaggero. Le attrattive di una persona sono senza dubbio una causa di innamoramento meno frequente d'una frase di questo genere. No, stasera non sono libera. Se si è con amici, è una frase alla quale non si presta quasi attenzione. Tutta la serata passa in allegria. Non ci si occupa affatto di una certa immagine, la quale per tutto quel tempo rimane immersa nella soluzione necessaria. Tornando a casa, si trova il cliché sviluppato e perfettamente nitido. Ci si rende conto che la vita non è più la vita che il giorno prima si sarebbe lasciata per un non nulla, perché se si continua a non temere la morte, non si osa più pensare alla separazione. Del resto, a partire non dall'una, ora indicata dal lift, ma dalle 3 del mattino, non provai più, come le altre volte, la sofferenza di sentir diminuire le probabilità che lei arrivasse. La certezza che non sarebbe più venuta mi apportò una calma completa, quasi una freschezza. Quella notte era semplicemente una notte come tante altre in cui non la vedevo. Era questa l'idea da cui partivo. E il pensiero che l'avrei vista domani o in altri giorni, risaltando su quel nulla ormai accettato, acquistava dolcezza. A volte, nelle serate d'attesa, l'angoscia è dovuta a qualche farmaco che abbiamo preso. Interpretandola erroneamente, chi soffre crede d'essere ansioso a causa di colei che non viene. In questo caso, l'amore nasce, come certe malattie nervose, dall'inesatta spiegazione d'un disturbo penoso. Spiegazione che poi è inutile rettificare, almeno per quanto concerne l'amore, sentimento sempre erroneo, qualunque ne sia la causa. Il giorno dopo, quando Albertine mi scrisse che era appena tornata a Aigreville e dunque non aveva ricevuto in tempo il mio messaggio e che, se glielo avessi permesso, sarebbe venuta a trovarmi quella sera, dietro le parole della sua lettera, come un'altra volta dietro le parole dettemi al telefono, mi parve di sentire la presenza di piaceri, di persone che aveva preferiti a me. Ancora una volta fui totalmente sconvolto dalla curiosità dolorosa di sapere che cosa avesse fatto, dall'amore latente che abbiamo sempre dentro di noi. Per un attimo mi parve che esso stesse per attaccarmi ad Albertine, ma si limitò a sussultare da fermo e il suo brusio si spense a poco senza che si mettesse in moto. Avevo capito ben poco durante il mio primo soggiorno a Balbec e non molto più di me, forse, aveva capito André del carattere di Albertine. L'avevo giudicata frivola, ma non sapevo se tutte le nostre suppliche non sarebbero riuscite a trattenerla, a farle saltare un garden party, una gita a dorso d'asino, un picnic. Nel secondo soggiorno sospettai che la frivolezza fosse solo un'apparenza. I garden parties, un paravento se non un'invenzione. Succedeva in forme diverse quanto segue. Succedeva, voglio dire, dal mio punto di vista, dalla mia parte del vetro, che non era affatto trasparente e mi impediva di sapere quel che di vero ci fosse dall'altro lato. Albertine mi faceva le più appassionate proteste di tenerezza. Guardava l'ora perché doveva andare a trovare una signora che, a suo dire, riceveva ogni pomeriggio alle 5 a Infreville. Tormentato da un sospetto e d'altronde non sentendomi bene, chiedevo ad Albertine, la supplicavo di restare con me. Era impossibile, anzi, non poteva trattenersi per più di 5 minuti perché la signora, poco ospitale, suscettibile e, assicurava Albertine, noiosissima, si sarebbe offesa. Ma si può pur saltare una visita. No, la zia mi ha insegnato che prima di tutto bisogna essere cortesi. Ma vi ho vista tante volte commettere delle scortesie. Non è la stessa cosa. Questa signora se la prenderebbe e mi farebbe delle storie con la zia. Già le cose non vanno tanto bene fra lei e me. Ci tiene che vada a farle una visita. Ma se avete detto che riceve ogni giorno. A questo punto Albertine, capendo d'essersi contraddetta, s'appigliava a un altro argomento. Certo che riceve ogni giorno, ma oggi ho dato appuntamento in casa sua a delle amiche, così ci si annoierà meno. Insomma, Albertine, preferite la signora e le vostre amiche a me dal momento che, per non correre il rischio di una visita un po' noiosa, siete decisa a lasciarmi solo, sofferente e desolato? Non me ne importerebbe niente che la visita fosse noiosa. Mi sacrifico per le amiche. Le riporterò a casa col mio barroccino, se no resterebbero senza mezzi di trasporto. Facevo notare ad Albertine che da Infreville c'erano treni fino alle 10 di sera. È vero, ma sapete, è possibile che ci chieda di rimanere a pranzo. È molto ospitale. Ebbene, rifiutate. Saremo da capo, la zia si seccherebbe. Del resto potete benissimo pranzare e prendere il treno delle 10. I tempi sono un po' stretti. Allora io non potrei mai pranzare fuori e tornare col treno. Ma ecco, Albertine, faremo la più semplice delle cose. Sento che un po' d'aria mi farà bene. Dal momento che non potete non andare da quella signora, vi accompagnerò fino a Infreville. Non abbiate paura, non verrò fino alla Tour Elizabeth, la villa della signora. Non incontrerò né lei né le vostre amiche. Dall'espressione sembrava che Albertine avesse ricevuto un colpo tremendo. Le si spezzava la voce. Disse che i bagni di mare le facevano male. Allora, vi dispiace che vi accompagni? Ma come potete dire una cosa simile? Sapete bene che niente mi fa piacere come uscire con voi. Bruscamente la situazione s'era rovesciata. Visto che venite con me, mi disse, perché non andiamo dall'altra parte di Baalbek? Potremmo pranzare insieme, sarebbe così carino. In fondo quella parte della costa è molto più bella. Comincio a essere stufa di Infreville e di tutto il resto con quegli angoletti verde spinacio. Ma l'amica di vostra zia si arrabbierà se non andate a trovarla. Ebbene, se la farà passare la rabbia. Non bisogna far arrabbiare la gente, ma non se ne accorgerà nemmeno. Riceve tutti i giorni, che io ci vada domani, dopodomani, fra 8 giorni, fra 15, non fa nessuna differenza. E le vostre amiche? Oh, mi hanno piantata in asso tante volte. Adesso tocca a me, ma dalla parte che proponete non ci sono più treni dopo le 9. E che problema c'è? Alle 9 va benissimo. E poi non bisogna mai lasciarsi fermare dai problemi del ritorno. Si troverà pure una carretta, una bici, alla peggio. Ci sono sempre le gambe. Si troverà pure. Come la fate facile, Albertine? Dalla parte di Infreville, dove le stazioncine di legno sono attaccate una all'altra, sì. Ma dalla parte di... non è la stessa cosa. Ma sì, anche da quella parte. Vi prometto di riportarvi sano e salvo. Sentivo che Albertine rinunciava per me a qualcosa di combinato che non voleva dirmi e che qualcuno sarebbe stato infelice come lo ero io. Vedendo che non poteva mettere in atto il suo progetto perché io volevo accompagnarla, rinunciava decisamente. Sapeva che non era irrimediabile. Infatti, come tutte le donne che nella loro vita hanno tante cose, poteva contare su un punto d'appoggio che non viene mai meno: il dubbio e la gelosia. Non che cercasse di eccitarli, al contrario. Ma gli innamorati sono così sospettosi che fiutano immediatamente la menzogna. E così Albertine, pur non essendo meglio di un'altra, sapeva per esperienza, senza minimamente sospettare di doverlo alla gelosia, di poter sempre ritrovare a colpo sicuro chi aveva piantato in asso una certa sera. La persona sconosciuta che abbandonava a causa mia avrebbe sofferto, l'avrebbe amata di più. Albertine ignorava che questa ne era la causa e per non continuare a soffrire sarebbe tornata a lei di sua iniziativa, come avrei fatto io. Ma non volevo né creare dispiaceri né stancarmi né mettermi sulla strada tremenda delle investigazioni, della sorveglianza multiforme e infinita. No, Albertine, non voglio rovinarvi il divertimento. Andate dalla vostra signora di Infreville o insomma... dalla persona che si cela dietro il suo nome, mi è indifferente. La vera ragione per la quale non vengo con voi è che voi non lo desiderate, che la passeggiata che fareste con me non è quella che volevate fare. Prova ne sia che vi siete contraddetta più di 5 volte senza rendervene conto. La povera Albertine temette che le sue contraddizioni, di cui non s'era accorta, fossero state più gravi. Non sapendo con esattezza quali menzogne avesse inventate, è possibilissimo che mi sia contraddetta. L'aria di mare mi fa sragionare. Dico sempre un nome per un altro. E, a riprova che non avrebbe avuto bisogno ora di molte tenere affermazioni perché io le credessi, provai il dolore d'una ferita sentendola confessare qualcosa che avevo solo pallidamente supposto. «Benissimo, d'accordo. Me ne vado», disse in tono tragico, non senza guardare l'orologio, per controllare di non essere in ritardo per l'altra persona, adesso che le avevo fornito il destro di non passare la serata con me. «Siete troppo cattivo. Butto all'aria tutto per passare una bella serata con voi e poi siete voi a non volere e m'accusate di essere bugiarda. Non vi avevo mai visto tanto crudele. Il mare sarà la mia tomba. Non vi rivedrò mai più». Il mio cuore sussultò a queste parole, sebbene fossi certo che sarebbe tornata il giorno dopo, come di fatti avvenne. «Mi annegherò. Vi butterò nell'acqua. Come Saffo. Ecco, è ancora un insulto. Non dubitate solo di ciò che dico, ma di ciò che faccio. Ma piccina mia, non c'era nessuna intenzione da parte mia, ve lo giuro, sapete bene che Saffo si è gettata in mare. È così, vi dico, non avete nessuna fiducia in me». Vide che la pendola segnava -20. Temette che le sfuggisse quel che doveva fare e, scegliendo il commiato più breve, di cui si scusò del resto venendo a trovarmi il giorno dopo, quel giorno probabilmente l'altra persona non era libera, uscì di corsa gridando «Addio per sempre!» in tono desolato. E forse lo era, desolata. Infatti, sapendo meglio di me quel che stava facendo, più severa, al tempo stesso più indulgente di me nei suoi propri confronti, aveva forse tutto sommato un dubbio che, visto il modo in cui m'aveva lasciato, potessi non volerla più ricevere. E a me credo che tenesse, tanto che l'altra persona era più gelosa di quanto non lo fossi io. Alcuni giorni dopo, a Balbec, mentre eravamo nella sala da ballo del casinò, entrarono la sorella e la cugina di Bloch, che erano diventate tutte e due molto graziose, ma che io non salutavo più a causa delle mie amiche, perché la più giovane, la cugina, viveva, e la cosa era notoria, con l'attrice di cui aveva fatto la conoscenza durante il mio primo soggiorno. André, a un'altra sussurrata lei sull'argomento, mi disse «Oh, su questo sono come Albertine, non c'è niente che ci faccia più orrore, sia a lei che a me». Quanto ad Albertine, mettendosi a conversare con me sul divano dove eravamo seduti, aveva voltato le spalle alle due equivoche fanciulle. Eppure, avevo notato come, prima di quel movimento, quando Mademoiselle Bloch e sua cugina erano comparse, negli occhi della mia amica fosse passata quell'attenzione brusca e profonda che dava al suo viso di monella un'espressione seria, addirittura grave, e la lasciava poi malinconica. Ma Albertine aveva immediatamente dirottato su di me i suoi sguardi, rimasti tuttavia singolarmente immobili e sognanti. Poiché Mademoiselle Bloch e la cugina, dopo aver riso forte e lanciato gridolini sconvenienti, avevano finito con l'andarsene, chiesi ad Albertine se la biondina, cioè l'amica dell'attrice, non fosse la stessa che il giorno prima aveva vinto il premio alla sfilata delle vetture fiorite. «Ah, non saprei», rispose Albertine. «Ce n'è una bionda? Vi dirò che non mi interessano molto. Non le ho mai guardate. Ce n'è una bionda?» ripeté in tono interrogativo e indifferente, rivolta alle sue tre amiche. Riferendosi a persone che Albertine incontrava ogni giorno sulla diga, quell'ignoranza mi parve troppo accentuata per non essere finta. Nemmeno loro sembra che ci stiano guardando, le dissi. Forse per il caso che d'altronde non ero conscio di prendere in considerazione in cui ad Albertine fossero piaciute le donne, al fine di toglierle ogni rimpianto, facendole notare che non aveva attirato l'attenzione di quelle due che, in linea generale, non usa, nemmeno fra le più viziose, interessarsi a fanciulle sconosciute. «Non ci hanno guardate?» replicò sventatamente Albertine. «Ma se non hanno fatto altro tutto il tempo?» «Ma non potete saperlo», osservai. «Davate loro la schiena». «E questo allora?» rispose mostrandomi, incassato nella parete di fronte, un grande specchio di cui non m'ero accorto e sul quale capii ora che la mia amica, mentre parlava con me, aveva posato senza sosta i suoi begli occhi grevi di preoccupazione.